troviamo scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica Romana la seguente dichiarazione. L'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa è stato affidato al solo magistero vivente della Chiesa, al Papa e ai Vescovi in comunione con lui, 85-100. Questa dichiarazione ha un valore spirituale tanto grande da rimanere nascosto ai più. È come voler osservare il Colosseo, il Pentagono o la Torre Eiffel a un metro di distanza. Sono opere talmente grandi che per vederle nel loro insieme occorre spostarsi ad una distanza sufficiente perché l'occhio sia in grado di abbracciarne tutta la loro struttura. Così è della dichiarazione appena citata, ciò che vuole intendere. Il cattolicesimo non ha paragoni nelle religioni, e se ci fosse un paragone è possibile trovarlo nelle religioni rozze, ignoranti e piene di superstizioni dove il capo spirituale domina e terrorizza tutti, dichiarandosi il portavoce diretto di Dio. Non vi sono dubbi che la parola di Cristo sia lo scritto più enigmatico e profondo rivelato all'uomo perché essa esprime niente meno che il pensiero di Dio e il suo carattere. Perciò interpretare autenticamente la parola di Dio significa essere niente meno come Dio. Che dico? Più di Dio, perché mentre è normale che Dio sia in grado di interpretare il suo pensiero, una creatura limitata e corrotta come l'uomo, che si ritenga in grado di interpretare autenticamente il pensiero di Dio, svolge un compito più grande di Dio stesso. Questa pretesa non è nuova perché, come abbiamo detto, ci sono sempre state delle persone insensate che si sono ritenute i portavoce diretti di Dio, ma la pretesa del cattolicesimo romano di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa non è fine a se stessa perché ha un secondo scopo, cioè quello di ritenere se stesso in grado di istruire in modo infallibile chi cerca e vuole conoscere Dio. Se il cattolicesimo romano si ritiene in grado di comprendere rettamente il pensiero di Dio, va da sé che si ritenga anche in grado di istruire correttamente. Diversamente non chiederebbe al popolo cristiano una irrevocabile adesione di fede, 88, e non garantirebbe al credente la possibilità oggettiva di professare senza errore l'autentica fede, 890. Così, nel buio e nelle incertezze delle religioni, il cattolicesimo romano ha la pretesa di proporsi come la risposta sicura al credente che cerca una o più risposte all'esistenza della vita, su Dio e sul suo pensiero. Ma è proprio vero che il cattolicesimo romano sia l'unico vero interprete del pensiero di Dio e anche l'unico a essere in grado di insegnare correttamente l'uomo? Dove troviamo scritto che un uomo è in grado di istruire o ammaestrare il prossimo nelle cose di Dio? Una cosa è certa, nessuno è in grado di istruire il prossimo, e questo soprattutto nelle cose di Dio. Il profeta Isaia, vissuto 700 anni prima di Cristo, disse da parte di Yahweh, la divinità di Israele, le seguenti parole: anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha compassione di te. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incastonerò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sugli zaffiri. Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchio e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati dall'Eterno e grande sarà la pace dei tuoi figli. Isaia 54.1013. Il Dio di Israele paragona la città di Gerusalemme ad una donna sconsolata e afflitta, e le promette che sarebbe intervenuto per consolarla, per farle del bene e che avrebbe istruito o ammaestrato i suoi figli per suscitare in loro una grande pace. Questa promessa calata nella realtà del popolo ebraico ha un significato didattico non indifferente. Se pensiamo che l'ordine dell'Eterno era quello di inculcare nel fanciullo la legge e la sapienza della vita, se pensiamo che un bambino a 12 anni veniva istruito per conoscere buona parte della parola di Dio a memoria, in che cosa consiste la promessa dell'Eterno che tutti i figli, e cioè ogni persona, sarebbero stati istruiti direttamente da Lui? Se istruivano i genitori, se i sacerdoti avevano il compito di insegnare la legge, come possiamo intendere che era l'Eterno a insegnare? Che immagine abbiamo nella nostra mente quando pensiamo che l'Eterno insegna? Risposta non facile, e la lettura del profeta Isaia può aprire uno squarcio alla nostra ignoranza. Porgete orecchio e ascoltate la mia voce. State attenti e ascoltate la mia parola. L'agricoltore ara tutto il giorno per seminare? Continua forse a rompere e a sarchiare il suo terreno? Quando ne ha pianato la superficie non vi semina l'aneto e non vi sparge il comino, non vi mette il frumento a solchi, l'orzo nel luogo designato e il farro lungo i confini, il suo Dio gli insegna la regola da seguire e lo ammaestra. L'aneto non si trebbia con la trebbiatrice, né si fa passare sul comino la ruota del carro, ma l'aneto si batte con il bastone e il comino con la verga. Il frumento per il pane deve essere schiacciato, perciò non lo si pesta per sempre. Ma vi si fanno passare sopra la ruota del carro e i cavalli, senza però schiacciarlo. Anche questo procede dall'Eterno degli eserciti, che è meraviglioso nel suo consiglio, e grande. In sapienza. Isaia 28.2-3.29. Ciò che sta di fronte ai nostri occhi è talmente evidente e quotidiano da sfuggire alla nostra attenzione. Per avere del pane o il sostentamento quotidiano, il contadino deve seguire alcune regole. Per esperienza sa che tipo di seme è adatto al terreno argilloso e sabbioso e nel trebbiare usa metodi diversi. Secondo l'Eterno, la saggezza e l'abilità del contadino devono essere riconosciuti come procedenti da Dio e non tanto da insegnamenti dell'uomo o da capacità intrinseche nell'uomo stesso. Se il contadino è in grado di comprendere quando seminare, cosa seminare e dove seminare, è perché viene ogni giorno istruito da Dio. Se prendiamo sul serio questa dichiarazione dell'Eterno, dove sono i nostri vanti di comprendere la vita e le cose di Dio? Che ragione abbiamo di gloriarci di avere insegnato al prossimo qualcosa di utile? Che autorità abbiamo di arrogarci il diritto di insegnare quando questa prerogativa appartiene solo all'Eterno Dio? Non si può nascondere certamente l'evidenza che il bambino e il prossimo imparano perché ricevono degli insegnamenti dal prossimo, ma l'uomo è solo uno strumento nelle mani di Dio per ammaestrare il prossimo, come sono stati strumenti di Dio i popoli pagani per correggere il popolo di Israele dall'idolatria. Non si tratta di una disquisizione per voler spaccare il capello in quattro, si tratta solamente di mettere ogni cosa al suo posto, perché messa al suo posto ogni cosa svolge la sua giusta funzione. Se con un martello pianto dei chiodi, non è il martello che pianta i chiodi, anche se in effetti è il martello che pianta i chiodi, ma sono io che uso il martello perché pianti i chiodi. In effetti i chiodi li posso piantare con altri mezzi o strumenti, come un sasso, un pezzo di legno, un qualsiasi altro attrezzo adatto a piantare un chiodo, perciò uso il martello solo perché è lo strumento più adatto, ma se questo fosse rotto o potesse ribellarsi, farei a meno del martello e userei un altro strumento. Nello stesso modo Dio usa gli strumenti adatti per istruire il contadino, ma se in seguito questi strumenti vengono meno, il contadino è comunque istruito da Dio, il quale gli darà la sapienza necessaria. Lo dimostra il fatto che vi sono persone che non hanno alcuna inclinazione all'agricoltura, anche se sono vissuti con dei genitori dediti all'agricoltura. Come conosco un uomo che non sa neppure piantare un chiodo sul muro, anche se i suoi genitori facevano di tutto. A questa persona Dio ha dato una grande memoria e virtù didattiche, ma non è stato istruito da Dio per le cose pratiche. Forse una delle cose più spregevoli e disumane della nostra società è costringere e formare persone verso compiti per i quali non sono stati istruiti da Dio. Anche Gesù ha trattato il tema dell'istruzione e lo ha fatto in un contesto di grande interesse. I giudei dunque mormoravano di lui perché aveva detto «Io sono il pane che è disceso dal cielo». E dicevano «Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire «Io sono disceso dal cielo»?» Allora Gesù rispose e disse loro «Non mormorate fra di voi». Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo, dunque, che ha udito e imparato dal Padre, viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio, questi ha visto il Padre. Giovanni 6. 41-46. Il tema della salvezza è uno dei più sentiti, perché ha diviso e divide tuttora popoli e gli stessi religiosi che si rifanno alla fede in Cristo. E Gesù, affrontando questo tema, dice categoricamente che nessuno può andare a Cristo se non è stato istruito dal Padre. Dunque, se un'anima si rivolge a Cristo è perché nell'udire la buona notizia viene sensibilizzata dalla persona dello Spirito Santo a porre fede in Lui. In tutta la parola di Dio viene messa enfasi che è lo Spirito Santo ad istruire l'uomo, dato che solo la persona dello Spirito Santo conosce le cose di Dio. 1 Corinzi 2.11. L'era del XXI secolo è caratterizzata dall'adempimento di una profezia del profeta Geremia nei confronti dei credenti e alla quale occorre dare la dovuta attenzione. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Geremia 31:34. E giunta l'era che per conoscere il Dio Trino non ci è più bisogno di un intermediario, meno come era fino al tempo di Gesù, ma ogni credente conosce ed è istruito direttamente da Dio stesso, con una relazione personale con Cristo, perché avrà sperimentato che i suoi peccati sono perdonati e dimenticati per sempre. Noi abbiamo la necessità indispensabile di ritornare alla fonte di quella verità secondo la quale solo Dio può istruire, per non vantarci di aver trasmesso direttamente all'uomo qualche verità, in modo che possiamo testimoniare, parlare, insegnare, senza avere la pretesa che altri accettino o capiscano. Credo che pochi siano stati così obiettivi come Agostino quando scrisse nel suo libro Confessioni la seguente riflessione: non mi ammaestrarono gli anziani, suggerendomi le parole con un insegnamento metodico, come poco dopo per la lettura e la scrittura, ma fui io stesso il mio maestro con l'intelligenza avuta da te. 8.13. Dunque, chi è stato istruito da Dio sia riconoscente, e con la pazienza e la misericordia delle quali egli stesso ha beneficiato da Dio, trasmetta agli altri la luce ricevuta. Così, genitori, insegnanti, predicatori, scrittori, coscienti che l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo, Giovanni 3.27, si limitino con umiltà a comunicare fedelmente ciò che hanno ricevuto da Dio, lasciando allo Spirito Santo il compito primario di istruire ogni persona. Questa è la pazienza e la libertà del cristiano. Marzo 2006. Ellero.